impazzito per te, ma non penso che possa dirti tutto quello che ti dico io. Spero che, mi auguro di cuore che non ci incontreremo mai più, per non perdere l'ultimo briciolo di dignità che mi rimane, ed evitare di squagliarmi sotto il sole, ed evitare di guardarti con un paio.